Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buongiorno da Deborah Rosciani, buon inizio settimana a tutti i nostri ascoltatori. Benvenuti a Salva Danaio. Il settore auto sta vivendo un momento difficilissimo. L'anno che si sta chiudendo è stato l'anno dei record sul fronte del prezzo del petrolio, di conseguenza anche sul fronte dei prezzi dei carburanti che, con grande calma, si stanno riportando su livelli più accettabili rispetto alla scorsa estate. Ma la crisi economica generale sta mettendo in ginocchio le compravendite di autovetture, per cui la prospettiva è di un 2009 che dovrebbe essere, secondo le indicazioni che abbiamo già, da dimenticare per l'industria di settore. Parte anche dalla cronaca l'esame del rapporto auto e risparmio, che è al centro della nuova guida del Sole 24 Ore. In edicola oggi con il quotidiano Il Low Cost di Qualità, l'auto, come ridurre i costi dall'acquisto alla manutenzione. E anche noi oggi andiamo sul tema per capire, anche in base alle vostre considerazioni, come si associa il concetto di risparmio all'uso dell'auto. Del resto, il rapporto con l'automobile per noi, per molti di noi, è imprescindibile. Non sempre si possono usare i mezzi pubblici, stamattina poi neanche parliamone. L'uso dell'auto è spesso obbligato per ragioni di lavoro o per ragioni anche di luogo in cui si abita, e oltretutto parliamo anche di un acquisto molto impegnativo dal punto di vista economico. Pensate che l'auto viene considerata l'acquisto più oneroso per una famiglia dopo quello della casa. Parleremo stamattina anche della filosofia low cost applicata all'auto, dalle assicurazioni ma anche alle nuove formule, appunto, che si stanno presentando sul mercato. Insomma, tanta carne al fuoco che naturalmente vorremmo anche affrontare insieme a voi con le vostre domande, i vostri interventi all'800 24 00 24. I nostri ospiti saranno intanto il coordinatore della Guida del Sole, il collega di Quattro Ruote Mario Rossi, poi Andrea Baracco, vicepresidente dell'associazione Asso Low Cost e direttore della comunicazione del gruppo Renault, Federica Alletto, direttore commerciale di Genertel, che è la compagnia diretta del gruppo Generali ed è stata la prima assicurazione online d'Italia, oggi la più grande per quote di mercato. Il numero verde ve l'ho ricordato, vi ricordo anche il numero a cui ci potete scrivere i vostri messaggi, che è il 349-238-6666. Questa mattina andiamo anche a dare un'occhiata alla borsa, dove abbiamo una buona tendenza. La settimana parte bene per l'Europa, è partita molto bene soprattutto per le piazze finanziarie asiatiche dopo la buona giornata vissuta venerdì da Wall Street, nonostante il cattivo deludente dato sull'occupazione. Dicevamo stamattina, l'Europa parte bene come è partita bene l'Asia, perché c'è stata la Cina, il governo cinese che ha lanciato il maxi piano di stimolo all'economia da 586 miliardi di dollari, un piano che vuole stimolare la domanda interna in modo da controbilanciare la frenata della domanda esterna soprattutto da parte degli Stati Uniti. Dicevamo, l'Asia bene, Nikkei a Tokyo più 5,81%, Hang Seng di Hong Kong più 3,52%, Shanghai più credo che abbia guadagnato qualcosa, adesso qui ho un errore sulla prestazione, appunto qualcosa come il 7%, per cui tutto questo ha portato naturalmente anche fortuna, chiamiamolo così, all'apertura per l'Europa. Adesso Parigi più 3,70%, Francoforte più 3,66%, Londra più 3,49%, Milano Piazza Affari più 3,51%. Una buona giornata per non c'è una tendenza univoca, ma insomma stanno andando bene diversi settori, in particolar modo però le materie prime in tutta Europa. Ma a Piazza Affari svettano Fondiaria più 6,37%, Tenaris più 6%, Buzzi più 5,59%, Telecom più 5,49%, Eni più 5,25%, Saipem più 4,75%. Questo tanto per citare i migliori titoli di questa mattina. A soffrire un solo titolo da stamattina, con il segno meno avanti, abbiamo Snam Retgas, che sta perdendo circa mezzo punto percentuale. Poi gli altri sono tutti invece positivi. Quelli che guadagnano meno: Geox più 0,39%, Lottomatica più 0,48%, Terna più 0,7%, più 0,7% anche per Autogrill. Abbiamo un rialzo di un punto per il Banco Popolare e per Pirelli. L'euro sul dollaro si sta avvicinando a 1,29%, l'Euribor continua a scendere, quello a tre mesi si trova al 4,41%, ai minimi dello scorso 5 marzo. Abbiamo, per quello che riguarda l'economia italiana, il brutto dato sulla produzione industriale, perché lo citiamo, ne abbiamo parlato anche nel giornale radio, perché il dato depurato, se andiamo a guardare il dato relativo alla produzione industriale di autovetture, abbiamo una diminuzione in settembre di quasi il 20% tendenziale. Insomma, un nuovo dato che conferma quale difficoltà stia vivendo il settore, non solo in Italia ma in tutto il mondo. Allora, prima di sentire la nostra scheda nella quale parliamo in particolar modo di assicurazioni, coinvolgo subito nel nostro dibattito i nostri ospiti di questa mattina, salutandoli. Mario Rossi, collega di Quattro Ruote, buongiorno. Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori. Buongiorno anche ad Andrea Baracco, vicepresidente di Asso Low Cost. Dottor Baracco, benvenuto. Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. E buongiorno anche alla dottoressa Federica Alletto, direttore commerciale di Genertel. Buongiorno a tutti. E sarà molto interessante anche la discussione del settore assicurativo, perché le compagnie dirette piacciono molto, perché hanno movimentato un bel po' la concorrenza nel settore assicurativo nel nostro paese, ma c'è ancora molta perplessità intorno, non dico al loro funzionamento, ma anche insomma sì, alla loro dinamica. Insomma, molti di noi, molti assicurati, non riescono ad abbandonare il rapporto con l'assicuratore di fiducia e quindi guardano con un po' di scetticismo a questa realtà che invece sta crescendo molto e funziona alla stregua delle compagnie tradizionali. Prima di tutto però andiamo a Mario Rossi, collega di Quattro Ruote, dicevamo coordinatore della guida come ridurre i costi nel nostro rapporto con l'auto, dall'acquisto alla manutenzione. Mario, un momento difficile come questo per il settore penso non si vedesse da un bel po'. Non si vedeva da un bel po', in effetti fa ancora più impressione se si pensa che quest'anno c'erano anche, ci sono ancora gli incentivi alla rottamazione, il proseguimento dell'iniziativa dell'anno scorso, e quindi un calo a doppia cifra per il mercato del nuovo, un drastico rallentamento anche per quello dell'usato in presenza di incentivi fa veramente impressione. Abbiamo almeno la buona notizia del prezzo dei carburanti, che dicevamo stanno ritornando su livelli un po' più accettabili rispetto a quelli che abbiamo visto la scorsa estate, quando il petrolio viaggiava sui $150 al barile, e abbiamo visto anche tra l'altro la benzina e il diesel portarsi praticamente sullo stesso livello di prezzo, anche quella una tendenza che non avremmo mai voluto vedere, e invece anche di questo fenomeno siamo stati testimoni. Mario. Siamo stati testimoni di questo fenomeno, fortunatamente i prezzi stanno scendendo lentamente, ma insomma la tendenza è costante, siamo ormai a livelli quasi di un anno fa, l'impennata che c'è stata nel primo semestre ha contribuito senz'altro poi al rallentamento complessivo del mercato e al contemporaneo spostamento delle scelte degli acquirenti, no? Dal carburanti tradizionali, benzina e gasolio, al gas per esempio. Ecco, questo fenomeno sta in parte rientrando, ma poi forse lo vedremo meglio più avanti parlando di incentivi, gli incentivi che arriveranno anche per il prossimo anno. E infatti, senz'altro. Mario, magari una rapida descrizione di tutto ciò che è contenuto nell'ambito della guida, perché non si parla solamente ovviamente di carburanti, non si parla solamente di assicurazioni, ci sono per esempio anche dei suggerimenti interessanti per chi deve fare costante manutenzione della propria auto, e anche lì insomma è sempre bene seguire degli accorgimenti che ci possono condurre sulla strada del risparmio. Diciamo che la guida affronta, è divisa in due parti sostanzialmente, una l'acquisto e l'altra la gestione, perché sono i due momenti importanti. Anche sull'acquisto si può risparmiare, non solo acquistando macchine che costano meno evidentemente, poi ne parleremo più avanti immagino con il dottor Baracco, ma anche per esempio acquistando macchine che si svalutano di meno, oppure cercando sul mercato le tante occasioni che si presentano di volta in volta, per esempio le macchine di fine serie, oppure in periodi particolari di campagne di incentivazione su alcuni modelli. Insomma, risparmiare anche sull'acquisto si può. Poi c'è tutta la parte legata alla gestione dell'auto, ovviamente ci riguarda tutti e tutti i giorni, nel momento in cui andiamo a fare il rifornimento di carburante naturalmente, ma una volta all'anno quando facciamo rinnoviamo la polizza dell'assicurazione, quando tutti gli anni dobbiamo fare ovviamente il tagliando, oppure in occasione di imprevisti naturalmente, di interventi di manutenzione straordinaria. Le occasioni di risparmio oppure comunque di spesa accorta e prudente e intelligente anche in questo caso non mancano, sono tante. Mm-hmm. Ovviamente bisogna avere un po' di pazienza e cercare cercarle sul mercato queste opportunità. Come capita, certo, Mario, per tutte le cose, per la verità. Avremo modo di sviluppare tutto questo nel corso della nostra trasmissione, ovviamente invitando anche i nostri ascoltatori a raccontarci la loro esperienza. Qualora vi stiate accingendo all'acquisto dell'auto, anche se abbiamo capito che il momento non è particolarmente favorevole per l'economia in generale, con che criterio lo state facendo? Perché consuma poco, perché vi piace il modello, perché magari avete intenzione poi di utilizzarla molto e quindi dovrete stare attenti anche alla manutenzione futura. Insomma, raccontateci la vostra esperienza all'800 24 00 24. Intanto una sintesi della guida delle Sole 24 Ore. Abbiamo scelto la tematica dell'assicurazione. Di solito si dice che dopo la casa di proprietà è il secondo acquisto più importante della vita e che dopo la spesa alimentare la sua gestione rappresenta in media la voce di costo più impegnativa per ogni italiano. È l'automobile, croce e delizia per milioni di persone. E oggi, tra burocrazia e traffico, multe e prezzi dei carburanti, possedere e usare l'auto rischia di essere sempre meno piacevole. Però, proprio perché il mercato dell'automobile e di tutto quello che attorno all'autoruota è vastissimo e riguarda bene o male tutti, le occasioni e le opportunità di risparmio non mancano. Anzi, sono davvero tante. Per esempio, il modo più efficace per tagliare le spese dell'assicurazione è cercare sul mercato la polizza migliore. Come si fa? Ci vogliono tempo e pazienza, ma quasi sempre il risparmio c'è e in qualche caso può raggiungere il 50%. Il modo più semplice è attaccarsi al telefono avendo sotto mano i dati del contraente. Generalità, provincia di residenza, età, anzianità di patente, sesso. Dell'eventuale polizza in corso, classe di rischio bonus-malus di provenienza e della macchina, marca, modello, tipo di alimentazione, anno di immatricolazione, cilindrata, potenza, targa e contattare una compagnia diretta o telefonica per un preventivo. Se si dispone di un collegamento a internet, la possibilità di ottenere preventivi si amplia molto, non solo con le compagnie dirette, ma anche con quelle tradizionali, che da qualche anno devono mettere a disposizione degli internauti un sistema di preventivazione online. Imbattibili fino a qualche anno fa, soprattutto per alcuni profili di rischio e nelle regioni del centro-nord, da qualche tempo le compagnie dirette stanno subendo il ritorno delle assicurazioni tradizionali. Anche per questo motivo è bene non escludere a priori il contatto diretto con gli agenti di zona. Sempre su internet, poi, sono disponibili alcune guide all'assicurazione RC Auto e strumenti per la ricerca della polizza più conveniente. Sul sito internet dell'ANIA c'è l'elenco ipertestuale di tutte le compagnie che offrono la possibilità di fare preventivi online. Esistono inoltre portali indipendenti in grado di fornire preziose indicazioni e che è utile consultare prima di procedere all'acquisto di una nuova polizza. Vedo che i primi messaggi che sono arrivati al 349-238-6666 sono messaggi di donne, Monica da Milano, Silvia da Lecco, io li leggo molto volentieri perché insomma anche qua almeno andiamo a sfatare un mito che dell'auto si occupa solamente l'uomo di casa, non è così, anche noi siamo diventate consumatrici molto attente anche nella scelta della nostra autovettura. E Monica da Milano ci dice: l'auto è un bene che nei primi 3 anni subisce almeno una svalutazione del 30%, non mi sembra un incentivo ai nuovi acquisti per quella categoria di persone che vorrebbero cambiarla spesso. E poi aggiunge: volevo cambiare auto ora, ma la mia di 2 anni e mezzo vale quasi la metà rispetto a quando l'ho presa, in più sul nuovo sale l'assicurazione, visto che è ancora in garanzia mi tengo per ora la mia. Comunque Monica sicuramente un'ascoltatrice molto avveduta anche per quello che riguarda l'utilizzo e la gestione della sua auto. Andrea Baracco, vicepresidente di Asso Low Cost, ci spiega che cos'è questa associazione e soprattutto come si applica il concetto di low cost al settore auto, visto che non parliamo solamente di basso costo. Beh, assolutamente no, diciamo che non a caso noi cerchiamo di associare sempre al termine low cost anche l'altro concetto, che è quello dell'high value, quindi dell'alto valore. L'associazione nasce perché ci sono delle aziende, tra cui anche Genertel, per cui è in linea con noi piuttosto che altre, che sono delle aziende che fanno del low cost la loro mission e quindi fanno dell'offrire al cliente un rapporto qualità-prezzo imbattibile, quello che è la loro visione del mercato. Ecco, volevo andare subito al punto dell'auto: come state monitorando questo settore, a parte diciamo l'ambito assicurativo? Ma allora, per quanto riguarda l'auto, ovviamente in questo momento noi del gruppo Renault con il nostro marchio Dacia siamo stati i primi a credere in questo ambito e l'abbiamo potuto fare perché abbiamo chiaramente ripensato il modo di progettare e di costruire l'automobile partendo dal momento in cui il designer prende in mano la matita per tracciare le linee della vettura. Partendo da un principio che è quello che noi chiamiamo il design to cost, quindi il design che è mirato già a contenere i costi, e faccio un esempio molto concreto: le nostre vetture Dacia, sia la Logan che la Sandero, sono caratterizzate da delle linee che sono abbastanza squadrate. Questo ha una motivazione di design, perché realizzare gli stampi per i lamierati delle vetture costa meno se sono fatti in maniera più squadrata che non con delle forme tondeggianti. Quali altre case hanno seguito l'esempio di Renault, dottore Baracco? Ma allora, diciamo che ci sono molti che hanno annunciato di voler entrare in questo settore, quindi ci sono, aspettiamo molti concorrenti. Noi abbiamo iniziato 2 anni e mezzo fa e in questo momento, devo dire, stiamo ottenendo dei risultati perché siamo uno dei pochi marchi in controtendenza. Dalla produzione al consumatore, tutto questo si traduce anche in risparmio al consumatore finale, all'acquirente dell'auto? Diciamo che sull'acquisto dell'auto ci sono dai 3 ai 4 mila euro di differenza rispetto ad un'auto dello stesso segmento. E insomma, buttiamoli via. Dottoressa Alletto, buongiorno, direttore commerciale di Genertel. Buongiorno. Allora, abbiamo detto anche nella nostra scheda come comunque, anche se siete stati la vera rivoluzione degli ultimi anni nel settore assicurativo, soprattutto legata all'auto, poi a presidiare il mercato si fa un po' fatica perché noi siamo un po' pigri come italiani, come consumatori, ci lamentiamo della nostra banca ma facciamo fatica ad abbandonare lo sportello sotto casa, e questo forse vale anche per il rapporto con l'assicuratore. Però i numeri ci sono, tanti risultati sono stati ottenuti, ma ancora si ritiene la compagnia diretta come la compagnia forse adatta ad un pubblico giovanile che ha dimestichezza con il canale internet. È ancora così? È assolutamente così, nel senso che la dimestichezza con il canale internet in particolare, e soprattutto l'abbracciare uno stile di vita low cost, che non significa scegliere e ricercare sempre il prezzo più basso, ma ricercare il miglior prezzo e la miglior qualità per ogni prodotto o servizio, sono le caratteristiche del profilo dei nostri clienti. Quindi poca pigrizia, ma la ricerca della convenienza assieme alla miglior qualità disponibile sul mercato. Questo non necessariamente sono caratteristiche di un profilo giovane, sono caratteristiche, anzi noi riscontriamo ai nostri clienti, di un profilo di persone con consumi evoluti, che acquistano in modo intelligente, quindi si informano, quindi non hanno timori a navigare su internet, a prendere il telefono, a fare domande, a chiedere, e nelle loro scelte pertanto riescono facilmente ad individuare qual è la scelta migliore. Dottoressa Alletto, io adesso tra l'altro volevo anche cercare di ripristinare il collegamento con lei, perché in realtà in diretta la sentiamo molto disturbata e non riusciamo a venire a capo di questo problema tecnico. Comunque abbiamo capito anche insomma la filosofia alla base dell'attività assicurativa online. Prima di andare con la nostra pausa e sentire le anticipazioni del GR Extra Large, comincerei subito a coinvolgere i nostri ascoltatori, perché hanno già delle domande e delle osservazioni molto interessanti sul tema che affrontiamo questa mattina. 800 24 00 24 è il numero verde a vostra disposizione. Piero da Monza, benvenuto a Salvadanaio. Buongiorno, io volevo portare la mia esperienza. L'aumento dei carburanti mi ha fatto scegliere una macchina a metano. Sono ovviamente stato sorpreso prima di tutto per i bassi consumi che riesco a fare. In città mediamente sono 12 km con un litro e in autostrada tranquillamente pulito i 19-20 km li faccio tutti. Arrivo al dunque, che è una cosa che è abbastanza golosa, questo mese io ho fatto 3.000 km rubricati correttamente e ho risparmiato 146 euro. Se io avevo una macchina precedente, se mi potete dire se posso dire il nome, eccetera, ma sì, eccetera. Piero, allora tanto. Prima aveva una C8 e adesso ha una multipla, ovviamente è diversa come tipologia di accessoristiche eccetera, molto abbastanza spartana, però il vantaggio che ho ottenuto è quello che vi ho detto. Quindi insomma lei interessava anche risparmiare sull'utilizzo del carburante, adesso al di là del fatto che sceglie anche una macchina perché ci piace esteticamente, no, principalmente per quello. Un ribasso del carburante, perché il carburante è andato alle stelle, ve lo ricordate, è andato a uno, io avevo il diesel, è andato a 1,50 euro, 1,52 euro. E adesso è diminuito, però la proiezione era che continuasse ad aumentare, certo, nei prossimi anni aumenterà, era tutto ingestibile, assolutamente. Adesso il gasolio, cioè il metano lo si trova a 0,92, però si può trovare anche qualche leggero punto in meno. Anche meno, la rete distributiva non è ancora abbastanza sviluppata. Esatto, nodo cruciale, Piero. Eccoci ritrovati a Salvadanaio, oggi viaggio nel mondo dell'auto a 360 gradi grazie all'uscita delle Sole 24 Ore, la guida, l'auto, come ridurre i costi dall'acquisto alla manutenzione. E l'ultimo tema sul quale avevamo promesso appunto di approfondire la nostra conversazione era quella relativa al carburante, tema centrale, anche lo abbiamo visto quello che è successo quest'anno, dai prezzi delle materie prime alle stelle, quindi anche del petrolio della scorsa estate, prezzi dei carburanti alle stelle, adesso in fase di ridimensionamento, ma sicuramente questa situazione ha indotto molti automobilisti a cambiare, oltre alla propria auto, anche alle proprie abitudini, appunto. Mario Rossi, collega di Quattro Ruote, dicevamo il coordinatore della guida. Allora, il metano, il nostro ascoltatore ha fatto una scelta che gli porta un risparmio mensile di 146 euro al mese, ci ha raccontato, però insomma la rete distributiva è molto inefficiente nel nostro paese, molto scarsa. Sì, il metano è in assoluto il carburante più conveniente che ci sia. Il carburante low cost, chiamiamolo così, visto che siamo in tema stamattina. Mattina, sì. Ed è anche quello che ha minore emissione, quindi è meno inquinante, il carburante più ecologico che ci sia, se così si può dire, parlando di carburanti naturalmente. Avevamo calcolato in redazione, quando i prezzi dei benzina e gasolio erano molto alti, che un'auto alimentata a metano piuttosto che a benzina poteva far risparmiare 6 euro ogni 100 chilometri. Adesso, come abbiamo visto, il prezzo di benzina e gasolio si sta abbassando notevolmente, mentre quello del metano resta costante, quindi la convenienza è inferiore. È sempre conveniente ovviamente il metano. Ci sono due aspetti da considerare. Uno, come sottolineava l'ascoltatore prima, è la rete distributiva, che nel caso del metano è ancora abbastanza insufficiente. E ovviamente questo è un aspetto di cui bisogna tenere conto, non si può pensare di fare anche solo 50 km per andare a rifornirsi di metano per risparmiare, verrebbe meno insomma la convenienza. Bisogna poi tenere conto del fatto che un'auto a metano in genere costa di più, o comunque trasformare un'auto già circolante a benzina, a metano o a GPL ha un costo non indifferente. C'è però l'incentivo a questa trasformazione, Mario? C'è però l'incentivo. Allora, l'incentivo alla trasformazione viene reiterato di anno in anno dal governo. Vengono stanziati, non è un incentivo strutturale, vengono stanziati ogni anno alcuni milioni di euro per chi decide di trasformare la propria auto a gas. Gli incentivi per il 2008 ovviamente sono già finiti da tempo, sono finiti a maggio. Per il 2009 invece torneranno a essere disponibili una cifra consistente, perché verrà raddoppiata rispetto all'anno scorso, saranno disponibili dal 1 gennaio 102 milioni di euro per chi deciderà di trasformare a metano o a GPL una macchina già circolante o ancora da immatricolare a benzina. Ma certo, credo che anche tra l'altro il governo abbia tutto l'interesse a portare verso questo sistema di alimentazione dell'auto, visti anche i problemi che abbiamo ad adeguarci agli standard europei, no, di emissioni di anidride carbonica, e quindi anche tutte le questioni climatiche che abbiamo in sospeso con Bruxelles in questo momento, Mario. Assolutamente. Ecco, infatti. Assolutamente. Allora, il settore assicurativo vedo che ha movimentato e non poco i nostri ascoltatori. Prima però di tornare su questo, ancora un minuto di pazienza ai molti ascoltatori che sono in attesa. Vedo anche pronto Silvano da Bergamo, che è naturalmente un assicuratore, ci vuole dire la sua, prenderemo molto volentieri le sue considerazioni. Però Andrea Baracco, Asso Low Cost, prima ci parlava della modalità con cui l'associazione considera, no, il risparmio legato all'auto, cominciando per esempio da un design essenziale che ovviamente comporta dei costi di produzione molto più contenuti. Ma il tema del carburante, voi invece come ve lo ponete? Ma il tema del carburante è chiaramente un tema centrale. Ovviamente ci sono oggi delle opportunità come il metano, il GPL a cui si faceva riferimento prima, che sono sicuramente delle opportunità per poter risparmiare. Farei sempre una, darei sempre un consiglio, che è sempre quello di considerare comunque il proprio chilometraggio, perché poi anche bisogna tener conto di quello e poi anche della eventuale rivendibilità del mezzo. Non dimentichiamoci che oggi c'è una grande esplosione dell'attenzione ad esempio sul GPL o sul metano, come si diceva prima, però dobbiamo anche tener conto che comunque è sempre una parte minoritaria del mercato rispetto a quello che è il l'abitudine di acquistare auto che vanno a benzina o a gasolio. Allora, le assicurazioni, entriamo subito nel vivo di questa tra virgolette polemica, non lo è, però insomma, tra l'altro le associazioni dei consumatori sono sempre in forte battaglia con le compagnie, perché ritengono che nonostante tutti gli interventi anche di liberalizzazione, gli accordi, i protocolli che sono stati fatti negli ultimi anni, il settore delle assicurazioni tarda ad avere, come dire, dei benefici concreti tra gli automobilisti. C'è stato anche l'introduzione del meccanismo dell'indennizzo diretto, che anche in questo caso molto lentamente ha portato una riduzione delle tariffe. Sentiamo cosa dicono gli ascoltatori. Federico dalla provincia di Padova, buongiorno. Poi sentiamo subito Silvano per poi far replicare la dottoressa Letto di Genertel. Federico. Buongiorno. Buongiorno a lei. Allora, io mi sono trovato in una situazione che da solo giugno dovevo rinnovare l'assicurazione dell'auto di mia moglie. Allora mi sono un attimo informato sul premio che dovevo versare per appunto rinnovare. Ho fatto anche una ricerca su internet e guarda caso la stessa assicurazione, l'agenzia mi faceva un prezzo sui 500 euro, mentre su internet addirittura 200 euro di meno. Ho chiesto delle spiegazioni, ma non ne ho avute e quindi ho cambiato assicurazione. Federico, il mercato funziona così, si va cercando, quindi adesso lei è contento, insomma ha fatto una scelta del tutto consapevole, nessun problema. Sì. Più che altro mi pareva strano che appunto la stessa assicurazione... No, effettivamente sembra strano anche a noi, cioè praticamente la compagnia fisica... Il suo assicuratore faceva un prezzo, guardando su internet invece loro proponevano altre tariffe? Sì, è bello che non era l'assicurazione quella online. Che c'è la corrispondente, no? Proprio la stesso marchio, che poi ovviamente anche la parte online. Però ho chiesto anche informazioni presso l'agenzia, ha detto che non è il primo... Non sono stato il primo a osservare questa cosa. Insomma, quello è un caso classico in cui poi la società si pone fuori mercato e sono problemi suoi. Silvano da Bergamo, lei è un assicuratore, ha sentito cosa è successo a Federico? Sì, buongiorno a tutti anzitutto. Ho sentito parte della telefonata. Comunque, volevo anch'io dare un'osservazione di questo tipo alla signora, alla dottoressa, non ricordo il cognome, sì, chiedo scusa. Genertel, ha letto, sì. Ecco, nel senso, senza fare uno spot pubblicitario alle compagnie tradizionali, però io da operatore del mercato mi capita spesso di confrontarmi e di vincere io con dei preventivi migliori, diciamo, certo, da compagnia tradizionale, di vincere la battaglia contro le compagnie online, ecco, diciamo. Ma certo, così. Silvano, poi credo anche che voi abbiate a disposizione come assicuratori un budget che la compagnia vi dà, no, per poter intervenire eventualmente anche su determinati profili, magari con clienti che sono vostri clienti da anni, non è così? Infatti un suggerimento che volevo dare un po' a tutti gli ascoltatori, anche in nome del libero mercato e della concorrenza fra compagnie, cioè non è sempre detto che il proprio assicuratore non riesca a dare dei prezzi abbastanza vicini, devo ammettere, tante volte più alti di quelle online, però magari ci si avvicina e allora in nome dell'avere una persona con cui parlare e non un computer o un call center, tante volte il cliente medio sceglie e dice vabbè, per 10, 20, 30, a volte anche 50 euro di più, magari resto lo stesso con la compagnia tradizionale. Ma infatti senz'altro, poi, ecco. Silvano, è molto spesso anche proprio, come dire, una scelta del tutto individuale, personale. Io magari posso anche essere disposta a pagare di più se faccio un lavoro che mi porta in giro per l'Italia in lungo e largo per tutto l'anno e magari ho spesso e volentieri bisogno di chiacchierare spesso con il mio assicuratore, magari preferisco il canale diretto che non quello indiretto della compagnia online. Dottoressa Letto, Genertel, eccoci di nuovo a lei. Allora le chiedo un commento rispetto a quello che abbiamo sentito fino a questo momento. Sì, certo, appunto il mercato è vivace e non bisogna essere pigri, bisogna guardarsi intorno, bisogna scegliere, bisogna guardarsi intorno, e come ha detto giustamente lei, si sceglie sulla base delle proprie esigenze personali oltre che sulla base della convenienza. C'è chi ha un rapporto diretto con l'assicuratore e oltre ad avere una convenienza di prezzo no, fruisce di questo rapporto diretto, chi invece no, chi il rapporto diretto non ce l'ha, chi per esigenze personali o di lavoro trova molto più comodo poter gestire la propria polizza su internet o al telefono utilizzando la tecnologia, l'email piuttosto che un sms, pagando con carta di credito, operando a distanza. Ecco, quindi non è possibile dunque individuare un profilo standard di consumatore che si rivolge alla compagnia diretta a letto? Sì, in questo momento lo si può individuare ed è sicuramente una persona che ha dimestichezza con la tecnologia e cerca il meglio al miglior prezzo. Quindi sono persone che hanno uno stile di vita contemporaneo e devoluto in questo senso, e quindi del concetto di low cost, high value ne sposano completamente la filosofia. Tuttavia lo spazio per dare l'accesso alle compagnie dirette, per accedere alle compagnie dirette, è totalmente aperto anche a quei target che si affacciano a questo stile di vita, soprattutto in tempi come questi, in cui effettivamente la convenienza diventa, e il risparmio diventa un elemento importante. Per sopravvivere e arrivare a fine mese mi pare che dobbiamo esplorare tutte le vie possibili. La ringrazio. Stanno arrivando delle bellissime telefonate, dei bellissimi messaggi questa mattina a Salvadanaio. Vedo che abbiamo colto nel vivo, parlando dell'auto e tutto ciò che attiene al risparmio legato all'utilizzo dell'auto, dall'acquisto, quindi alla compravendita, alla manutenzione e poi alla gestione ordinaria, le assicurazioni. Gli aspetti che dovremmo toccare stamattina sono non decine, centinaia. Speriamo di accontentare tutti. Adesso non è per fare una pubblicità proprio spudorata, però davvero per tutti gli aspetti che non riusciremo a toccare, sicuramente li tocca la guida, l'auto, come ridurre i costi dall'acquisto alla manutenzione, pubblicata questa mattina con il Sole 24 Ore, peraltro curata dal collega che è in diretta con noi questa mattina, Mario Rossi di Quattro Ruote. Ivan da Milano, buongiorno, dalla provincia di Milano, benvenuto. Buongiorno. Ci dunque dica. Sarò veloce e sbrigativo, faccio l'autista, quindi sono nel campo bene o male dei motori. Sì. Velocemente, l'anno scorso ho cambiato macchina, ho cambiato anche assicurazione, ho avuto un risparmio anno di 260 euro. Secondo, ho fatto installare l'impianto GPL, un altro risparmio di 40-50 euro mensile. Sì, quindi andiamo insomma a 500-600 euro l'anno. Assolutamente. E sull'acquisto della macchina vorrei che il signor Mario Rossi mi spiegasse dove è il risparmio. Nel momento in cui vado a fare un finanziamento, gli tassi di interesse che li devo pagare? Su un acquisto di 10.000 euro si pagano sui 6-7% anno di interesse, sono 600-700 euro all'anno. Facendolo per 5 anni sono 6x5, 3.000 euro che vado a pagare in più una macchina. Ditemi voi dove è il risparmio. Dov'è il risparmio? Ivan, bellissima domanda, grazie Mario. Questa era rivolta a te. Peraltro, il prestito per l'acquisto dell'auto è il prestito che viene definito finalizzato. Secondo te, se si va a prendere un prestito personale in banca, si può risparmiare qualcosa senza passare direttamente al concessionario, che si fa spesso da intermediario appunto per il prestito per l'acquisto, sì, dell'auto? Ma può darsi, dipende poi dal rapporto tra banca e cliente. In alcuni casi è possibile ottenere in banca un finanziamento a un tasso di interesse effettivamente inferiore rispetto a quello che propone la concessionaria. A volte va detto che il finanziamento, la finanziaria captive, cioè la finanziaria della casa che viene rappresentata dalla concessionaria, consente al concessionario di giocare il margine che ha di guadagno con il finanziamento, aumentando leggermente lo sconto, quindi faccio un po' più di sconto se prendo il mio finanziamento. Va detto anche però in generale, è chiaro che il denaro costa molto e lo abbiamo visto recentemente con l'impennata dei tassi di interesse, anche se adesso si stanno abbassando. Sì, però le banche stanno aumentando gli spread sui prestiti, per cui qua è un cane che si morde, esatto, la coda. Anche in questo caso il mercato dei finanziamenti è abbastanza vasto. Ovviamente c'è la finanziaria captive della casa che propone il suo finanziamento. In genere la concessionaria ne dispone di altri finanziamenti, quindi che può proporre al cliente. Il cliente può andare alla propria banca a chiedere gli altri, oppure qualche finanziaria, e poi scegliere ovviamente in base alle condizioni complessivamente migliori, non necessariamente la rata più bassa in assoluto. L'importante è stare attenti al TAEG, il tasso annuo effettivo globale, sì, che è l'unico indicatore che permette di confrontare abbastanza omogeneamente più finanziamenti. Quindi valutare bene il TAEG e poi la durata. È chiaro che più il prezzo del lungo, più interessi si pagheranno e quindi più costoso sarà rimborsare la Però insomma, magari tutta quel risparmio che Ivan ha trovato con un'assicurazione più conveniente, anche il GPL, può essere orientato, insomma, questo risparmio al sostenere i tassi da affrontare anche per il finanziamento per l'acquisto. Francesco da Napoli, eravamo in attesa, 800 24 00 24, potete continuare ancora per qualche minuto a prenotare i vostri interventi. Francesco, benvenuto. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ci dica tutto. Dunque, io volevo aprire una parentesi sulla fase di acquisto dell'auto, sì. Anche approfittando della presenza del dottor Rossi di Quattro Ruote, che è un collega, che faccio il giornalista. Anche se non allora, Francesco, ci diamo del tu, sì. Perfetto. Allora, in pratica, la fase d'acquisto è molto importante e io voglio dare qualche suggerimento sulla base della mia esperienza. Cioè, innanzitutto, secondo me bisogna liberarsi di alcuni pregiudizi. Io ho sempre comprato auto di marchi molto blasonati, fino a qualche anno fa. Poi ho capito che oggi invece, siccome la concorrenza si è molto livellata, oggi conviene prima dell'acquisto documentarsi bene, quindi leggere alcune riviste specializzate come quella che rappresenta Mario Rossi, cioè Quattro Ruote, ma non solo Quattro Ruote, ce ne sono tante altre, oggi aiuta moltissimo in fase di acquisto, perché ci si rende conto che rinunciando semmai ad alcuni aspetti come il brand, cioè l'immagine di marca, si riesce comunque a acquistare un prodotto di qualità risparmiando. Francesco, facci l'esempio, andiamo nel concreto e togliamoci. Esatto. Da chi sei andato via? Dove sei andato? Io sono andato via da macchine come Volkswagen, tanto per intenderci, o a marchi come Audi, tanto per intenderci, che sono comunque ottimi prodotti di elevata qualità. Però leggendo appunto i giornali, ho reso conto che c'erano anche marchi un po' alternativi, trascurati, normalmente trascurati, che offrivano prodotti di altrettanta qualità. E hai comprato? Per la prima volta ho comprato una macchina di un costruttore asiatico, gruppo Hyundai Kia, ovviamente prima però confrontato con modelli di pari segmento, parità di motore, parità di accessori, quindi ho messo a confronto l'auto che io ho comprato, che lo posso dire qual è una Kia Ceed. Se non è una parolaccia, Francesco, possiamo dire qualsiasi cosa. Dottor Rossi la conosce sicuramente, è una Kia Ceed, l'ho messa a confronto con auto dello stesso segmento, e mi sono reso conto che già al momento dell'acquisto risparmiavo dai 2.500 ai 3.000 euro. E in quanto ad assistenza, Francesco, tutte le problematiche poi connesse, ecco. Ecco, no, in più c'è da dire un'altra cosa, che non solo a parità di prezzo, cioè a parità di motore, allestimenti, risparmiavo un 2.500-3.000 euro, quando poi era una macchina l'unica che mi dava addirittura 7 anni di garanzia sul prodotto. Francesco, io ti ringrazio molto, devo salutarti perché ci rimane un minuto e mezzo di trasmissione volata stamattina. Ci leggo un commento di Francesco da Verona al 349-238-6666 che dice: parlate anche delle auto ibride a benzina, elettriche, ho una Toyota Lexus e mi trovo benissimo. Però invece di Mario Rossi volevo sentire Andrea Baracco di Asso Low Cost su quanto ha raccontato Francesco. La macchina asiatica che costa molto meno, per esempio, è da considerarsi la stregua della categoria che, diciamo, voi rappresentate con la vostra associazione? Ma diciamo che sicuramente gli asiatici fanno, per quanto riguarda i mercati che devono penetrare con i mercati occidentali, una politica di prezzo molto aggressiva. Per quanto riguarda il discorso del low cost, bisognerebbe andare a vedere proprio come viene generata tutta la filiera dal progetto alla realizzazione del veicolo, per vedere se effettivamente esistono, come dire, questi parametri. Sicuramente ha fatto un acquisto, come dire, intelligente, infatti, facendo delle valutazioni dei esatto. parametri. Bisogna perderci anche un po' di tempo, come compriamo la nostra casa con attenzione e tante altre cose. Insomma, anche per l'auto ovviamente bisogna stabilire il miglior rapporto qualità-prezzo, ma anche il miglior rapporto con le nostre esigenze. Mario Rossi, ti lascio concludere questa trasmissione, questa salvadanaio. Tra l'altro non riesco a sentire ancora la dottoressa Alletto, dovremmo fare una trasmissione solo dedicata al settore assicurativo, dottoressa Alletto, come tante volte abbiamo fatto, per smuovere un po', sgombrare il campo anche da tutte le insicurezze legate all'utilizzo della compagnia online. Mario. Sì. Secondo... No, dicevo, legandomi a quello che ha detto l'ultimo ascoltatore, è vero, in generale la variabile prezzo, soprattutto nel caso delle coreane e delle giapponesi, pesa molto, non dimenticando mai che una macchina ha un valore residuo alla fine del suo ciclo di vita, che può essere di 2, 3, 5, 10 anni a seconda delle esigenze di ciascuno naturalmente, e quel valore residuo ovviamente varia. Il marchio premium, come dire, fa premio anche da quel punto di vista, e poi c'è il discorso costo d'esercizio. Un'altra variabile da tenere in considerazione in fase d'acquisto è questo, cioè quanto costa poi effettivamente fare ogni un chilometro con ogni macchina. Ci sono delle riviste specializzate, che mette a disposizione dei dati di questo tipo che sono utili appunto nella scelta. In quel senso, scegliere la macchina, acquistarla significa scegliere la macchina, come dire, migliore, più conveniente, con il miglior rapporto qualità-prezzo, Mario, generale, sì, valutando tutti gli aspetti. Grazie, dobbiamo salutarci, purtroppo la trasmissione è terminata qui, ma vedo che ha suscitato molta curiosità, allora ci ritorneremo. Grazie a Mario Rossi, Andrea Baracco, Federica Alletto. Salva Danaio torna domani, vi auguro una buona giornata.